Puristi della musica, in senso assoluto, siete avvisati. Questa è una puntata speciale di Radio Prisma. Una puntata che possiamo forse chiamare Time Machine, perché vi porterà indietro nel tempo, o almeno mi ha portato indietro nel tempo. Tutto è cominciato con una piccola audiocassetta, una di quelle che si usavano una volta. C'era scritto Compilation Russ ed era il mio portafortuna. Me la portavo ovunque, in gita, all'interno di quei Walkman un po' antichi che fanno tanto effetto vintage oggi. Russ perché sono le iniziali del nome di mio cugino, che nell'estate del 90, durante una vacanza estiva a casa dei miei zii, mi fece questa compilation, da cui oggi pescherò un po' a caso, scegliendo quei brani che più mi sono rimasti, diciamo, impressi e che sono, secondo me, un buon modo per tornare indietro a tanti anni fa. Il primo brano, non ve lo annuncio, mi è tornato alla mente in modo molto strano, ma ve lo spiegherò dopo. Andiamo con la musica intanto. Beh, non sarà sicuramente un capolavoro della musica, ma per me questo brano ha una magia infinita. Infinito è anche il titolo del brano Infinity di Guru Josh, che come vi dicevo mi è tornato in mente in modo assolutamente sincronicistico, come tante cose ultimamente mi tornano in mente in questo modo. Si era nel novembre del 2008 e mi era venuto in testa così questa melodia, però non sapevo assolutamente che cosa più, cioè mi ricordavo la provenienza, cioè quella cassettina di mio cugino, però non avevo in mente né il titolo né il nome, perché mio cugino, da bravo pigrone, aveva registrato sì una bella compilation, ma non aveva scritto né nomi né titoli. E quindi lì che mi scervellavo, oddio, ma come faccio a trovarla questa canzone, non la troverò mai. E poi ci ho rinunciato. In uno dei miei weekend lavorativi, in uno di questi grossi mega iper centri commerciali dove si vende di tutto, tecnologie varie, nel reparto dove ci sono le autoradio che pompano musica a tutto volume, a un certo punto sento questo sax e rimango pietrificata. Comincio a sentire il sax, che è lo stesso, ma il brano è completamente diverso. Io, ma che strano, però ho detto, vedi, se è riuscito in una nuova edizione riuscirò a trovarlo. Fatto sta che mi sono messa a googlare, come si dice oggi, che va tanto di moda questa parola, ma non sapevo come. E quindi dai che metti giù melodia anni 90, melodia anni 80 con sax, cerca, alla fine l'ho trovata. E quando l'ho risentita mi si è aperto un mondo, la mia infanzia, adesso non vi voglio tediare con queste stupidaggini, però insomma, se avete modo di andare su YouTube e mettere Infinity, vi usciranno le due versioni, Infinity 2008, che è la versione, diciamo, rimasterizzata e remixata attuale, secondo me non ha nulla a che vedere con l'originale, e brano che qualcuno potrebbe considerare un po' coatto, ma a me piace moltissimo anche per l'uso della tastiera tipicamente legato alla house di quegli anni. E se andiamo a vedere chi era Guru Josh, era Paul Walden al secolo, nato nel 64 e famoso soprattutto in Inghilterra nel campo della musica house negli anni 90. Ma adesso vi presento un altro inglese famoso nel mondo della dance music anni 90, Adam Tilley, meglio noto come Adamski, dal nome dell'omonimo ufologo George Adamski. Prima di presentarvelo, vi faccio sentire un brano che sicuramente conoscerete. Ah, dimenticavo! Pump up the volume, alzate il volume a manetta! You want such future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Anche questo brano l'avete sentito, è bello coatto, come si dice dalle mie parti. Ma avete riconosciuto la voce? Ebbene sì, era Seal, più noto nell'ambito soul, che ad Adamski con questo brano deve la sua fortuna, perché prima si arrabattava in giro per il mondo con gruppi poco conosciuti, ma in realtà non era famoso ancora come cantante. E Adamski, un producer appunto, oltre ad essere un autore di brani house e dance, rimase impressionato dalla voce di Seal e gli diede il testo del brano Killer, che diventò poi un successo e lanciò Seal all'attenzione del mondo come cantante. Ma avrete sicuramente ricordato anche la versione successiva di Killer / Papa Was a Rolling Stone, che fu ripresa poi più tardi nel 93 da George Michael. Una chicca degna di nota è senz'altro il videoclip del brano, che rivedendolo su YouTube fa tenerezza per come era ingenuo indietro rispetto a quelli di adesso. E però per l'epoca, insomma, era già abbastanza tecnologico, tra virgolette, e da notare che alcuni degli effetti grafici erano stati realizzati con il famoso Amiga, vecchio computer degli anni 80, che tanti ricorderanno con nostalgia e affetto. Ma su Seal ce ne sono di cose da raccontare. Una cosa curiosa è che per lungo tempo si è vociferato sulle ferite, sulle cicatrici che ha in viso. In realtà queste sono dovute al fatto che da ragazzo, durante l'adolescenza, era stato ammalato di lupus, una sindrome che conoscerete grazie alle puntate del Dottor House, che martellano sempre con questo lupus: ogni paziente che entra in ambulatorio ha lupus. Così, una curiosità che grazie a Wikipedia è venuta su, tanto per cazzeggiare un po'. Come proseguire adesso? Dunque, vediamo cosa esce fuori dalla mia cartelletta. Ah, sì, eccola qua. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going. Touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know you talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape to learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Okay. can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just on height. I'm dope. Amici miei, io ve l'ho detto che era una puntata strana questa, uomo avvisato, mezzo salvato, anche donna per carità. Ebbene sì, è uscita fuori la mia anima coatta, che devi fare? Purtroppo quando nasci in certi luoghi è inevitabile, no, a parte gli scherzi, comunque è musica che pompa parecchio e che mi piace un sacco ascoltare, anche ballando, perché no? Bini, bini, bini. Questo era Mac Hammer che ha ripreso un altro brano, Super Freak, di Rick James. E da You Can Touch This di Mac Hammer a Touch Me dei 49ers, il passo verso la coattitudine è molto molto breve. We'll be right back. Ci siete ancora? Siete sopravvissuti? Benissimo, perché non è ancora finita. E dopo gli italiani 49ers, ecco a voi i belgi Technotronic, pronti a ballare. The night is through for you, and let's get down to the beat. Bump it, thump it. quanti zompi che ci siamo fatti io e mia cugina, eh? Sì, perché mentre mio cugino sparava a pompa queste canzoni nella sua stanza, noi pensavamo bene nella stanza a fianco di saltellare sul letto facendo arrabbiare la zia che veniva prontamente a redarguirci di smetterla di fare casino. Che ricordi ragazzi, lo so, per quelli di voi che temerari sono rimasti in ascolto, adesso tiro fuori qualche altra cosa dalla mia time machine. E dopo i belgi Technotronic non potevano mancare gli olandesi 24/7. Hollywood, the down MC. I'm up on the mic doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got older, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. Buffo pensare di aver rimosso per un buon periodo della mia vita queste radici musicali, perché da quando sono diventata un po', tra virgolette, integralista della musica rock alternativa, specie di matrice anglosassone, insomma, Mai avrei pensato di poter fare una puntata di questo genere, però mi ha ricordato che è importante essere aperti mentalmente, perché sennò si rischia, cioè me lo dico da sola tra l'altro, di chiudersi in una nicchia a compartimenti stagni, che insomma ti esclude un po', no? dalle scoperte musicali di ambito diverso, per cui a chi magari avrà storto il naso sentendo questa roba, insomma, dico solo questo, ecco, è stata un po' una puntata un po' giocosa, e per ricordarmi da quali origini musicali provengo, non solo questo, ovviamente ce ne sono tante altre, dalle musiche di Fivelandia, che erano le compilation delle canzoni dei cartoni animati, che devo dire si è scoperto poi in alcuni casi ispirarsi a brani famosi, come Anna dai capelli rossi, che riprende The Rivers of Babylon e tante altre. Comunque ogni musica, solo per il significato di macchina del tempo, ha la sua dignità, al di là che poi a livello artistico certo ci siano poi delle differenze, questo è innegabile, però ecco, non storciamo mai il naso, perché è un peccato, ci si perde gran parte del divertimento. E per continuare a divertirci, adesso vi faccio ascoltare il brano di un gruppo che nel 1992, durante gli anni delle scuole medie, aveva realizzato un altro brano, Rhythm is a Dancer, che non è quello che vi faccio sentire adesso, che noi ragazzine ci divertivamo a ballare con un rotatorio movimento di criniere che non a tutte riusciva proprio bene. Comunque no, era divertente, perché ci chiudevamo in camera con questa canzone e chi più chi meno provavamo a fare le giravolte con i capelli che dovevano teoricamente roteare in aria in modo plateale, ma spesso si rivelavano poi dei goffi movimenti ridicoli. Ecco a voi Snap. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. questo era il primo grande successo degli Snap, un gruppo nato per volere dei produttori Luca Anzillotti e Michael Munzing, un progetto tedesco. E in realtà loro, questo primo brano che li proiettò, diciamo, nel panorama dell'Eurodance mescolato all'hip hop, è stato ripreso da un rapper di New York, Chill Rob G, che sarei curiosa, insomma, di recuperare anche quel brano per vedere un po' fino a che punto si sono ispirati e quanto invece ci hanno messo del loro. Perché scopro con mia grande sorpresa che anche Rhythm is a Dancer in realtà non era un originale, ma si è ispirata a una canzone chiamata Automan del gruppo electro hip hop New Cloys o Cleus. E a proposito di power, adesso ascoltiamo un brano che di potere, almeno per quanto riguarda il ritmo, ne ha da vendere. Vediamo un po' se ve lo ricordate. Listen to the beat, a beat of the sound, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of the sound, a buzzing in my head like a bomb down. Truth subjected to the boogie like won't be flow, but don't by the soul while having club. I sing my song and I'm a wrecking, I'm burning up with a good ass fever. Beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb down. Listen to the beat of the sound, song, a buzzing in my head. Truth subjected to the boogie like. Tweets and tricks to do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive with a kick on fire, through the kick on drive on the cabinet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on earth, they talk on a tea. Buzzing in my head, I'm head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, song. You're buzzing in my head like a bomb dong. Twitch and to the boogie like one big flop. Don't about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. Burning up with a good ass feel. To the beat of a song, song. Buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, song. You're buzzing in my head like a bomb dong. A beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a kick on fire, kick on drive on the Japanese bucket. We're standing alive with a kick on fire, kick on drive on the Japanese bucket. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. E questi erano i Mano Negra di Manu Chao. Vi sarete chiesti che diavolo c'entrasse questo brano con tutto il resto della puntata. Infatti non fa parte della compilation RAS di mio cugino, ma ce l'ho voluta mettere perché nella mia navigazione in internet cercando brani di quella compilation mi sono imbattuta in una classifica dell'89-90 in cui c'era appunto questo brano, e che a sentirlo mi è sembrato molto più recente. Sono impallidita quando ho letto la data, perché è un brano ancora fresco per le sue sonorità e anche che ho sentito anche più recentemente, insomma, quindi ci sono un po' rimasta. E come avete sentito, insomma, dal testo si capisce come Manu Chao e la sua band facessero dell'autoironia sul fatto, insomma, che Parigi non è un posto dove stare per una piccola scimmia, un piccolo scimpanzé francese che non è mai stato su un palco. Non siamo mai stati su un palco, ma posso sognare che lo saremo. E questa è un po' la traduzione casareccia del testo di King Kong 5, che è tratto dall'album più venduto della storia dei Mano Negra, che è Putas Fever. E pensate che io non sapevo che i Mano Negra andarono anche in tournée con Iggy Pop negli Stati Uniti e fecero tutto esaurito anche a Londra. E nel 91 invece uscì poi King of Bongo, che addirittura è considerato il disco più punk della band, che in realtà fa un genere, una specie di mescolanza, per cui gli stessi membri della band coniarono la parola pachanka proprio per indicare che, insomma, il loro genere musicale mischiava stili e culture diverse. Ma torniamo alla compilation di mio cugino per pescare un brano di una rocker canadese, alla Hannah Miles. Thank you. Avete presente quei brani che magari avete sempre ascoltato per anni, fin da piccoli, senza però in realtà capire esattamente poi il significato, perché soprattutto quando i brani sono in un'altra lingua, insomma, ci piacciono soprattutto per la melodia, per il modo di cantare, per il ritmo. Non sempre, ecco, sappiamo proprio di cosa parlano. E questo è il caso di questo brano, Black Velvet di Alanna Miles, che per l'occasione, insomma, sono andata a cercare su Google, appunto, per vedere un po' di che parlasse questo brano che ricordavo sempre degli anni 90, 1990. E niente, il testo niente di più semplice che la storia di un ragazzo, un mama's baby, cioè un cocco di mamma che faceva impazzire tutte le ragazzine della scuola, compresa la protagonista del brano. E qui potrebbe adesso partire la marcord di tutti i ragazzi che ricordo durante l'adolescenza nei cortili della scuola, su cui ogni tanto si fermava la mia attenzione, ma non vi voglio tediare oltre. Concludiamo con un brano che potrebbe annoverarsi come un degno appartenente della categoria Che cazzo c'entra, creata da Buck e Grex in qualche puntata di Radio Pazza, che in apparenza non ha nessun collegamento con tutto il resto della puntata, perché non è dell'89-90, non ha quelle ritmiche, non c'era nella compilation di mio cugino, ma chiude perfettamente il cerchio perché ha in comune con il primo brano che ha dato il là nella mia mente alla creazione di questa strana puntata Macchina del Tempo, uno strumento, il sassofono, che è lo stesso che mi ha permesso di ritrovare attraverso una ricerca su Google quel brano Infinity di Guru Josh, di cui non sapevo né titolo né nome dell'autore, in modo del tutto inaspettato. Il brano di cui parlo in realtà è uscito nel 1978, il titolo porta il nome di un quartiere reso famoso in realtà da Sherlock Holmes, ma la cosa curiosa è che diciamo che l'assolo di sassofono della versione originale suonata da Raphael Ravenscroft diede luogo a un risorgimento che fu chiamato come il fenomeno Baker Street, perché dopo il successo di questa canzone ci fu un incremento di vendite di sassofoni e anche un aumento dell'uso di questo strumento nella musica pop mainstream e nella pubblicità televisiva. Quindi scoprendo questi vari elementi, alla fine mi viene da chiedermi chissà se Guru Josh nel fare quel brano dance assolutamente lontanissimo da quello che sto per ora proporvi, si sia ispirato in qualche modo anche a Baker Street. Sarà una bestemmia per i cultori della musica, ma come diciamo noi qui a Radio Pazza, noi facciamo come cazzo ci pare e quindi mescoliamo tutti i generi. E senza diciamo fare gli schizzinosi. Benissimo, siamo arrivati al termine di questa puntata un po' strana di Radio Prisma. Spero che non vi siate annoiati e spero anche che qualcuno di voi si sia anche divertito nel ricordare magari un suo passato danzereccio come ho fatto io. Se la puntata vi è piaciuta, se vi ha fatto schifo, se ho fatto degli errori, ho detto delle castronerie, commentate, commentate, commentate, lasciando un commentino sul blog radiopazza.blogspot.com dove andranno in onda le nostre puntate, perché è sempre un piacere, insomma, ascoltare anche la vostra opinione. E alla prossima puntata, ciao! We'll be right back. got this dream.